temporal de la nostra corsa, un tremendo mulino tra la morte e la vita. Questo era un cielo, il maldito anima, che non c'è stare tutto robe nere, robe brutte. Forse che già tutto scritto, quando mi non lo so mia, forse che già tutto scritto, male mio non armarda. Nella nostra corsa, volte tutto capita, ma noi altri ci illudemo di poterla programmare. E per quei che riuscio a programmare la soccorsa, e sicuro è il destino che ha dato una mano. Forse che già tutto scritto, ma domino non lo so mia. Forse che già tutto scritto, male mio non arrivarà. Come un temporal della nostra corsa, un tremendo mulinel tra la morte e la vita, un tremendo mulinel tra la morte